Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Due vignette satiriche, afferma Charlie Hebdo, che hanno ferito un'intera comunità e oggi è arrivata la risposta del comune di Amatrice nella forma di una querela contro il periodico francese che il 2 settembre, pochi giorni dopo il sisma, ha ironizzato pesantemente su morti e feriti del terremoto. Un vilipendio macabro, insensato e inconcepibile delle vittime di un evento naturale, ha spiegato il legale del comune più colpito lo scorso 24 agosto. Sisma all'italiana era stato il primo crudele graffio di Charlie. Penne al pomodoro, penne al gratin, lasagne, un intreccio fra devastazione e tradizioni italiane. Alle rabbiose reazioni apparse sui social network, il settimanale aveva risposto con un secondo disegno di un uomo ferito sotto le macerie e la frase «Non è Charlie Hebdo che costruisce le vostre case, è la mafia». Diffamazione aggravata è l'accusa lanciata dal comune reatino, una denuncia sulla quale il sindaco Sergio Pirozzi non vuole soffermarsi più di tanto. Ben altre sono le priorità. In queste ore si corre per allestire la nuova scuola provvisoria la di Amatrice. La vicenda, accumuli, se vogliamo, puramente teorica e di interesse soltanto per le tante persone, tra cui anche il sottoscritto, quindi me la sento sulla pelle, per giorni e giorni dopo la strage infame che avvenne a Parigi il 7 gennaio del 2015, 12 morti e 11 feriti, quando con il Kalashnikov e le bombe a mano i fondamentalisti islamici punirono i disegnatori satirici e giornalisti della rivista Charlie Hebdo, uccidendoli, radendoli al suolo. Talmente enorme, talmente atroce fu quel gesto che tutti dicemmo, mettemmo nei social network, ci scrivemmo addosso, i capi di Stato sfilarono per Parigi dicendo «Je suis Charlie». Questo cosa significa? Significa prendere le distanze da persone civilizzate, da chi si fa giustizia con le armi in mano e uccide, a priori, ma anche dando una forma di apertura estrema per cui i ragazzi di Charlie Hebdo, quelli morti, quelli feriti, quelli che sono sopravvissuti, hanno comunque diritto di dire, fare, pensare, esprimersi come meglio credono. Può piacerci, può non piacerci, ma la satira comunque non deve avere nessun tipo di forma di censura, di limitazione, di bavaglio, via dicendo. Je suis Charlie significava, almeno nella mia idea, ci fanno schifo per le cose che fanno molte volte, li troviamo sadici, li troviamo cinici, li troviamo irriverenti. I ragazzi di Charlie Hebdo facevano satira cogliendo e toccando laddove noi ci sentiamo più deboli. Potrebbero ironizzare sulla morte di vostra madre e quella sarebbe comunque, dovrebbe avere comunque diritto di essere proclamata. Non esiste il buon gusto, il cattivo gusto, la cattiveria, il far ridere o non far ridere. Se satira è quello. Bisogna dire siamo a un livello di civilizzazione tale cui possono esistere anche nella società dei lazzaroni che se la prendono con quello che probabilmente fa molto male a molte persone. E non è vero che la satira è soltanto verso i potenti, può essere verso qualunque cosa. Io posso ridere anche sul bambino macilento che muore di fame se questo, secondo me, lancia un messaggio. E questo hanno fatto, quelli Charlie Hebdo l'hanno fatto, facendo una sorta di sintesi crudele, spietata, senza nessun rispetto per nessuno sui fatti di Amatrice. Hanno mostrato gli italiani di Amatrice, trasformati in vari tipi di pasta, con altrettanto idealizzato come fosse una sorta di lasagna, le macerie con dentro i morti di Amatrice. Atroce, bruttissimo, dolorosissimo per chi veramente è vicino a questi morti, ma per chi normalmente ha una visione diversa dalla realtà. Proprio la vignetta era la sintesi di quello che tutti si dicevano. In Italia questo terremoto di Amatrice comunque, nella sua lettura generale, è una lettura molto strapaesana, in cui il simbolo della pasta, della matrice, sembra il motivo unificante per cui tutti siamo vicini a queste persone che hanno subito il terremoto. La seconda vignetta, dopo la prima reazione, è ancora peggiore, ma ancora una volta, in maniera irriverente, ingiusta, non motivata, non supportata da prove reali concrete o da fonti accertate, dice quello che tutti pensano. Sì, in realtà le case sono cadute perché avevano preso i soldi e non le hanno messe in sicurezza al tempo dovuto. Quindi non ve la prendete con noi, prendetela a chi vi ha fatto le case, vi sono cadute in testa. Amatrice ha reagito facendo querela a Charlie Hebdo. Chiederanno l'erogatorio internazionale, detto il sindaco, contro quel ciclostilato che li ha offesi. Ora oggi non dobbiamo dirci, ho già risposto Charlie Hebdo, avete sentito al giornale radio poco fa, il direttore Riss ha detto, ma sì, ce ne facciamo un baffo alla vostra querela, giustamente, faranno una vignetta adesso sul sindaco di Amatrice Pirozzi che querela Charlie Hebdo, dice abbiamo fatto di peggio, figurateci, spaventano le querele. La domanda che vi faccio io, siamo ancora Charlie Hebdo noi e quindi dobbiamo dire che questa querela è uno strumento irreale, ingiusto, non si censura, era meglio stare zitti, questo sono e quello è, sono dei teppisti e dei picchiatori della satira, quindi lasciamoli perdere quello che sono. Oppure se noi ammettiamo la satira, allora non siamo più Charlie Hebdo. Allora Charlie Hebdo va bene soltanto quando fa male nelle sensibilità altrui e non nelle nostre sensibilità. 800 24 0024, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Vi riassumo la mia premessa in una domanda secca. Hanno fatto bene o hanno fatto male i cittadini di Amatrice, il sindaco di Amatrice, l'ufficio legale di Amatrice a querelare Charlie Hebdo per la vignetta irriverente, di pessimo gusto, cattiva, quanto volete, non entro in merito alla qualità della vignetta, ma nell'esercizio di un diritto di poter comunque essere anche cattivi. Dico, ha fatto bene o ha fatto male Amatrice a querelare Charlie Hebdo? È un gesto esemplare oppure è un gesto che è incoerente rispetto al fatto che tutti ci siamo detti io sono Charlie Hebdo? Cinzia da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Nulla, io volevo dire che secondo me hanno fatto bene, perché io sono una di quelle che ha detto Gesù e Charlie Hebdo quando è successo, ma nel segno di una legalità, cioè se io mi sento in qualche modo offesa dalla satira, io ho tutto il diritto di denunciare e di fare la querela. Non solo, voglio anche dire che la satira deve esistere, per carità, nessuno dice niente, però dovrebbe essere vagliata da una etica e da una intelligenza, cosa che mi sembra questo allora, che sia avvenuto. Non solo aspetti, perché sì, gli devo dire un'altra cosa, se no sarebbe come ammettere, io passo per la strada e ammazzo quella persona lì, perché? Perché a me non mi piace, io ho il diritto di poter ammazzare chi non mi piace, non è così, così non è nemmeno la satira, io ho il diritto di fare satira, ma ci vuole un'etica che la valuta. Allora io dico come la penso io, sì, lo dico all'inizio, mi sono diciamo un po' radicalizzato il mio giudizio ascoltando lei, è diritto, non è che nessuno esclude il diritto di querelare, mica dico che non deve querelare, se uno si sente offeso è giusto che quereli, sono gli strumenti di tutela legale, ma da un punto di vista di coerenza o di rispetto del principio per il quale abbiamo detto tutti je suis Charlie, la querela ha un senso? Che poi la satira debba rispondere a un'etica, non credo. La satira, proprio perché tale, non ha nessuna etica, non ha briglie. Deve colpire comunque, fare male comunque. La satira serve per fare male, non per carezzare. Se no si chiama il peana, si chiama la poesia d'amore, si chiama il solluchero. La satira è un'altra cosa. Però la penso così. Diritto comunque a querelare, figuriamoci. Mica ci può essere il divieto di querela. Però mi sembra un po' singolare che quando si viene colpito in ciò che si ha più caro, si quereli. Perché Charlie ha colpito tutto e di tutto, sensibilità che noi magari non conosciamo, siamo lontani. Una persona laica non si scandalizza nel vedere rappresentazioni irreverenti di personaggi delle convinzioni religiose, le storie sacre, Gesù Cristo, Madonna, Maometto, non gli importa nulla, dice vabbè, tutto al più, non mi piace lo scherzo, ma non me ne importa nulla. Però quando ti colpiscono nella tua carne, quando la satira colpisce te, ciò che è più caro, ciò che per te è più di sacro, dovresti dire sì, mi fa star male, però è giusto che abbia il suo diritto di esprimersi, risponderò con altri strumenti ma non con la querela. Cinzia da Firenze ha parlato, c'era un altro ascoltatore che è caduto in questo momento, cioè, allora Nanni buongiorno. Eccoci qua, buongiorno Nicoletti, io direi che questa della querela è la classica reazione da verginella illibata, tipico degli italiani, che hanno la coda di paglia, perché qua nel sud potremmo fare un elenco di pagine di imprese colluse con la criminalità organizzata che riciclano il denaro e costruiscono i materiali scadenti, perciò hanno fotografato l'esistente, è questo, ma siccome noi abbiamo la coda di paglia abbiamo reagito in questo modo. Quindi lei è di parere, abbiamo riassunto due pareri diciamo estremi, la signora dice la satira deve rispondere a criteri etici o al buon gusto, che sono termini astratti che nulla hanno a che fare con la satira. Lei dice comunque sia nell'essere dei lazzaroni, quindi cattivi, quindi ironizzare sui morti è un'azione cattiva, però hanno detto quello che tutti pensiamo ma nessuno dice in termini così espliciti. Esatto, esatto Nicoletti. È brutto dirlo, non possiamo dirlo, nessuno lo dice, perché se si esprime un giornalista, si esprime una persona, deve esprimersi con delle cognizioni di causa su fatti concreti e reali. Hanno riassunto il luogo comune, diciamo così, loro con quel gesto lì hanno riassunto il luogo comune, la diceria, e comunque questo può avere un senso. Christian. Sì, buongiorno. No, io avevo da un po' di giorni questa idea, ma un maestro della vendetta avrebbe fatto buon gioco a scrivere una eventuale vignetta con cui prendere in giro i 12 morti di Parigi. Ma l'hanno fatto, sul tempo è uscito Tartare alla Parisienne, hanno fatto vedere, sì, ma non ha più senso, perché è una risposta sullo stesso, è il primato in queste cose. Sì, il Tempo, il quotidiano romano di destra, ha fatto una vignetta, Tartare alla Parisienne, ha fatto vedere i morti di Parigi, ma lascia il tempo che trova, però è lecito che lo faccia, può farlo. Secondo me, anzi, è più adeguata la risposta del Tempo con la vignetta piuttosto che la querela, ma a mio punto di vista. Cinzia Leone, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Cinzia Leone, la chiamo come persona chiamata in causa in quanto facente parte, anche se probabilmente lateralmente, in parti diverse della sua vita, non a 360 gradi nella sua attività artistica, al mondo delle persone che fanno questo tipo di lavoro. Cinzia Leone è una disegnatrice, una graphic novelist e giornalista italiana di fama mondiale. Nel 78 è stata tra i fondatori del Male. Il Male era il celeberrimo settimanale satirico che in Italia fece male veramente a tutti. Si chiamava Il Male. Vi sareste posti, Cinzia, negli anni, fine degli anni 70, problemi del genere nel fare una vignetta su Amatrice, voi del Male? Assolutamente no. Ma detto questo, la satira non gode dell'immunità parlamentare, quindi è assolutamente legittimo che qualcuno sporga una denuncia. Diciamo che è una cosa però sostanzialmente un po' inutile, un po', forse anche un po'... come si dice in gergo, telefonata, cioè c'era da aspettarselo, in modo anche per ricompattare un popolo in ginocchio in una città distrutta. La verità è che secondo me forse l'unico caso in cui la satira può, insisto, non gode l'immunità parlamentare, quindi è legittimo denunciare. Su questo siamo d'accordo, nessuno può dire non denunciare. Appunto. Però posso dare il mio giudizio sulla tua denuncia. Ecco, no, aspetta, ecco, vale la pena, io do un giudizio sulla tua denuncia, è molto più divertente l'operazione fatta dal Tempo, cioè anche se superflua, un po' vecchia, però è più legittima, rispondo con le stesse armi. Ma la verità è che una denuncia vale la pena di farla solo quando la satira danneggia una ed è infamante di una persona precisa. In questo caso è stato infamato, vogliamo dirlo, Sisma l'italiana vuol dire infamare tutta l'Italia, quindi la denuncia dovrebbe fare una class action Mattarella, Renzi, l'intero Parlamento. Allora forse avrebbe senso. I cittadini di Amatrice così duramente colpiti, e non solo di Amatrice, perché parliamo di un areale dove anche dove non ci sono stati morti, i paesi sono in ginocchio perché non hanno più gli esercizi commerciali. Però Cinzia, Hebdo non è la Francia, Hebdo è come dire, esatto, che l'Italia è rappresentata dal Male. Negli anni 70 era il Male, no, era la spina nel fianco di tutti. Esatto, e quello deve essere, deve rimanere. Quindi, detto che non, ognuno ha legittimo possibilità e come dire, voglia di denunciare chiunque, secondo me la satira va denunciata solo quando viola i diritti individuali. E in questo caso non c'è un diritto individuale. Quando diffama un essere umano, certo, singolo, certo, ti singolo. Dice Cinzia Leone, tu hai rubato. Ma ci sono stati dei casi, per esempio c'è stata una lunga diatriba legale che poi è finita, credo, tra Vauro e Fiamma Nierenstein, perché era stata... personalmente infamata. Poi Vauro è stato assolto, quindi vedete che poi alla fine queste class action non funzionano, queste denunce non funzionano. Detto questo, tutto sommato direi che Charlie Hebdo, seppure facendo una vignetta sostanzialmente brutta che non fa ridere, ma io la pensavo così anche un pochino su Maometto, eppure ho detto Je suis Charlie, ad uccidere, visto che è stato non il terremoto, lo dice il vescovo Saviano, lo dice anche Charlie Hebdo. Cioè, attenzione, se denunciamo Charlie Hebdo bisogna denunciare anche i vescovi. Il vescovo Saviano ha detto la stessa cosa, il vescovo di Rieti, mi sembra. In un altro modo, non ha fatto la vignetta perché forse non sa disegnare il vescovo di Rieti, e meno male per lui. Ma insomma, la satira, come dicevi tu prima, è brutta, sporca e cattiva. Aggiungo, come la vita, perché la verità è che, non per essere troppo benaltrista, ma io non perderei tempo con le querele. Devono perseguire penalmente tutti quelli che hanno messo la sabbia, e la sabbia non l'ha messa Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ha messo la sabbia sul luogo comune, la sabbia della satira. Ferma un attimo, è bello il concetto, devo fermarti, devo dare la linea 800240024, riprendiamo tra l'istante. Vedo che l'opinione degli ascoltatori è bella variegata, quindi non c'è un pensiero unico su questo tipo di atteggiamento. Questo mi fa piacere, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. 800240024. Stiamo valutando se la querela che il comune di Amatrice ha sporto contro Charlie Hebdo per le vignette fatte con soggetti terremotati ha un suo valore effettivo e giustificabile, senza naturalmente dire che non dovevano denunciare. Ognuno fa quello che vuole, naturalmente, però possiamo dire, se siamo Charlie Hebdo, Charlie Hebdo è quello, e quindi anche quello va bene, ci deve stare. Do qualche reazione del pubblico. Naturalmente c'è chi dice esagera, dice: quando ho visto questa vignetta avrei fatto col Kalashnikov le stesse cose che hanno fatto i terroristi a Parigi. Esagerazione, adesso come è facile però passare dalla parte delle reazioni estreme. Qualcuno dice: mi meraviglio che Nicoletti si indigni per questa denuncia quando lui ha fatto tanto casino, quando avevano fatto un casting in Rai dicendo cerchiamo un disabile che sia tenero, che ispiri tenerezza. Ma io non mi sono indignato, anzi la mia è stata una risposta satirica, figuriamoci. Ho fatto un video su YouTube in cui ridevo assieme a mio figlio, dicevo tenerezza sto cazzo, non ho visto quale indignazione. Se poi da lì è successo un casino sui giornali, non ve la prendete con me. Maurizio, buongiorno. Maurizio. Se sono io, buongiorno. Sì, è lei. Buongiorno Nicoletti. Sono fortemente contrario a qualunque denuncia fatta per libertà di stampa, cose satiriche e quant'altro. Fatto salvo però, come ha detto giustamente Cinzia Leone, quando c'è una diffamazione diretta, se io diffamo a lei personalmente attribuendole comportamenti che in qualche maniera ledono la sua onorabilità, la sua persona, giustamente lei mi denuncia, perché me la sono presa con Maurizio dicendo Maurizio gli puzzano i piedi. Lei dice no, non è vero, ti denuncio. Ecco, perché attacco lei come persona, ma se lo dico in generale, dico a tutti gli italiani gli puzzano i piedi, non è che l'Italia mi denuncia, ci faccio una risata sopra, mi dimostri che non è vero. Scusi, ho radicalizzato per capire qual è la posizione, certo, che abbiamo raggiunto. Ma certo, e vorrei aggiungere però una cosa: chi doveva controllare che la scuola stava in piedi ed era sicura per gli allievi? Certo. Queste sono le persone che vanno veramente denunciate. E se mi dice ma non avevo i mezzi per farlo, ma lui la scuola doveva chiuderla, non ha fatto il suo dovere, e sono queste le persone che ci mettono nei pasticci, a parte le case private che sarà ben difficile che tutti possano mettere a posto per problemi economici, con tutte le tasse che paghiamo. Quindi scusi, la cinica e spietata cattiveria con la vignetta ha toccato un punto dolente, ha ragione l'ascoltatore che diceva abbiamo la coda di paglia. Assolutamente, ma non parlo dei privati perché purtroppo ognuno deve fare conti con il proprio portafoglio, ma con tutte le tasse che paghiamo, maledizione, anche i luoghi pubblici che dovrebbero essere per tutti sono assolutamente... Lo sa perché ti faccio questa missione? Perché noi allora, tutti noi italiani, se avesse ragione Amatrice, dovremmo costituirci parte civile nella denuncia di Amatrice e dire no, non siamo più Charlie Hebdo, abbiamo cambiato idea. Perché se stiamo tutti zitti, siamo in contraddizione. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Guardi, si parlava prima del messaggio che queste vignette possono, cioè della satira come strumento di trasmissione di un messaggio. Io devo dirle che quando le ho viste mi hanno fatto veramente incazzare, certo, mi hanno fatto terribilmente incazzare. Poi mi sono chiesto quale tipo di messaggio avranno voluto trasmettere. E non ho ancora trovato una risposta, perché non mi è chiaro ancora quale sia il tipo di messaggio. Allora, glielo dico io, secondo me, quello che è per me, me ne prendo la responsabilità. Voi italiani avete buttato in retorica e pasta asciutta quella che è una tragedia, quando in realtà dovete stare più attenti e controllare meglio come vengono usati i soldi pubblici. Questo è il messaggio, è chiaro, è palese, non è che c'è fa schifo con la vignetta, siamo d'accordo, non fa ridere tutto. Poi questo, dice, voi l'avete buttata in retorica e quando in realtà il vero problema siete voi. Esattamente quello che ha detto più o meno il sindaco di Rieti. Carlo da Roma. Pronto? Sì, Carlo. Giancarlo, chiedo scusa. No, allora, no, sicuramente c'è il diritto di satira. Chi fa satira sa che si becca la querela, ma la satira non nasce, tra l'altro, come ha detto lei giustamente, per addolcire, cioè da sempre, dai tempi della Grecia, nasce per fare il suo dovere, quello di ridere, addirittura, come ha detto lei, non solo i potenti ma anche le persone che diciamo fanno parte di una comunità. Charlie Hebdo è una satira molto particolare, è cattiveria allo stato puro, non è mai stata. Quando noi abbiamo detto Je suis Charlie Hebdo, dovevamo essere consapevoli che difendevamo comunque dei tagliagole della matita, non è che difendevamo dei chierichetti, questo deve essere chiaro. Cinzia Leone, riprendo con Cinzia Leone, ricordo disegnatrice, graphic novelist, giornalista italiana, ma mi interessa soprattutto, e tu mi racconti qualcosa dell'esperienza del male. Quante volte vi siete trovati in situazioni simili che vi è stato detto sparate contro la Croce Rossa o la prendete con i poveretti e voi siete andati avanti uguale? Ce l'hanno detto sempre tutti, ma la discussione era aperta ogni volta di fronte a ciascuna vignetta, si litigava, ma alla fine non ci siamo mai autocensurati. Ma noi avevamo un vantaggio, non avevamo ancora il political correct in campo. E non avevamo nemmeno in campo, diciamo la verità, alcuni integralismi. Cioè nessuno è venuto mai a smitragliare la redazione ma fammi qualche esempio di dei casi clamorosi. Uno per tutti, mettere in un fotomontaggio Aldo Moro, che in quel momento era prigioniero delle BR, e metterlo al fotomontaggio che lavava i piatti in camicia disperato con scritto abitualmente vesto Marzotto, cioè lì offendevamo una persona precisa che era in una condizione, che era in una posizione politica di grande rilievo, che era prigioniero. Considerato quasi un santo laico, esatto, in quel momento. Esatto, cioè noi abbiamo fatto nel corso del suo martirio, una cosa terribile. Ma anche cose contro la Chiesa, ma non è che nessun credente è venuto appunto a smitragliarci con il Kalashnikov. Quindi sono cambiati un po' i tempi, secondo te? Ma assolutamente sì. L'integralismo, sicuramente l'integralismo islamico ha segnato ha rialzato il tiro, anzi lo ha abbassato molto, alzo zero, alzo uomo, cioè ora diciamo chiaramente quelli di Charlie Hebdo ora se ne fregano della denuncia di Amatrice. Il loro terremoto, ma insomma l'hanno già avuto il loro terremoto, gli hanno ammazzato tutta la redazione dopo quel massacro. Ci sono state difficoltà a trovare altri disegnatori, la gente aveva paura e chiedeva lo pseudonimo. Noi lo pseudonimo non ce l'avevamo, spesso facevamo vignette collettive, ma volevi un esempio, volevate un esempio, un altro. Muore la Malfa e noi passiamo tutta la notte a cerchare un guscio di tartaruga a cui applichiamo delle zampette e delle quattro zampette, un guscio di tartaruga vera, un carapace si chiama, se non sì, mi sbaglio, sì, sì. È vero che non è stato facile in una notte, gli abbiamo fatto col pongo le manine e le braccine e la faccia di La Malfa identica, fatta come una scultura di pongo, e il titolo, ed era la copertina, è morta una tartaruga. Io per esempio di quella non mi sono autocensurata, ma a distanza di anni mi sono pentita, cioè il pentimento, il cristiano pentimento, rimane. Un disegnatore di satira può fare degli errori, la satira può sbagliare. Nel caso di Amatrice però, come vediamo dal dibattito che giustamente è stato sollevato, l'effetto sabbia nei meccanismi e nei luoghi comuni e anche nel political correct, come si vede dal dibattito, ha funzionato. Cioè questo sisma all'italiana, fatto in un modo volgare, insisto, che io non approvo, ma non approvare non vuol dire denunciare, tantomeno smitragliare, scusate, no? Ti faccio un esempio di reazione del pubblico. Nicoletti, Cinzia Leone, siete giornalisti miopi e faziosi. Perché non dite anche che simpaticoni Charlie non fanno più satira sull'Islam e che in una loro vignetta hanno incolpato delle stragi un Dio, il nostro, e non Allah? Giornalisti con la schiena dritta, cercasi. Daniele da Firenze, né da Firenze. Non ho ben capito. Beh, ne hanno fatti, Charlie ne ha fatte di tutti i tipi sulla Chiesa Cattolica. Ha fatto, c'era una che lui questo dice, hanno paura dei musulmani e se la prendono adesso col nostro Dio. Ne hanno fatto una recente in cui c'erano tre religioni insieme in un sandwich porno erotico e l'hanno fatta una mucchiata di tutti e tre. Sì, lasciamo correre. No, è che noi siamo che più civili rispetto a quelli che ammazzano, se la prendono con noi, noi siamo... Beh, e sono orgoglioso di essere più civile, nel senso che non ammazzo nessuno. Anch'io, sì. Non è che dico, te la prendi con me perché sono... No, non è che sono buono, sono civilizzato. Poi ricordatevi che Charlie può essere non acquistato, si può parlare male di Charlie e magari si deve, ma come dire, fermiamoci qui. La denuncia si può anche fare, ma secondo me è del tutto inutile. Insisto, io lavorerei di più su quelli che ha messo la sabbia e ciottoli in percentuali sbagliate. No, viene da ridere a me che lo sai che le rogatorie internazionali non funzionano per gli evasori fiscali, per gli assassini, per i mafiosi. Ti pare che funzionano? Ma non solo, ma scusate, faccio un parallelo, adesso un po' stupido, ma se Charlie Hebdo avesse, Charlie Hebdo non avrebbe potuto fare, né Charlie Hebdo né noi, una vignetta con il sushi sui terremoti giapponesi, cioè i vittime dei terremoti giapponesi trasformate in sushi, prese in giro perché sushi è sashimi. Perché? Perché le case giapponesi sono costruite così bene che i terremoti non gli fanno nulla. Fermiamoci un attimo, dare il traffico, riprendiamo con Cinzia Leone e con gli ascoltatori tra un istante. Melog, cronache meridiane. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, se il vero colpito dalle vignette di Charlie fosse il sindaco di Amatrice, allora quella sarebbe satira. E io comunque direi che tutto procederebbe in un canale normale. In verità, se noi leggiamo quelle vignette, le guardiamo, non credo che pensiamo alla mafia o alle male costruzioni. Pensiamo al fatto che gli italiani sono spaghetti e come i tedeschi sono krauti, questi luoghi comuni, banali, propagandistici. Questa è una satira che non si rivolge al potere, è una satira che si rivolge contro le persone deboli e nel deriderle alimenta uno spirito di rivalsa nazionalistica che è populista. È una satira che si traveste da satira, ma in verità è funzionale al potere, non svolge proprio il ruolo della satira. Charlie Hebdo è un giornale di destra, populista, che si traveste da giornale, diciamo, che difende la libertà di espressione. Sì, ma questo ci sta tutto, non è che il fatto sia di destra populista non toglie il fatto che si possa comunque esprimere. Questo, io non sono entrato in merito sul che non penso che Charlie Hebdo abbiano in sé la voglia di fare un'azione sociale per redimere l'umanità. Sono delle persone che fanno una satira stronza, scusi il termine, questo. Di mestiere fanno satira stronza, come lo faceva Cinzia Leone negli anni 70, che pensavano che era una maniera di esprimersi. Questo può essere una valenza artistica, una valenza di tipo di presenza, può essere una forma letteraria, e via dicendo, chiami come vuoi. Su questo non voglio entrare in merito. Dico però, giocare sul luogo comune, giocare sulla matriciana, che è stato l'elemento, il collante di tutto quello che si è detto nei giorni del terremoto, logicamente va a colpire qualcosa che ci fa male. Ci pensiamo anche noi alle matriciane in piazza, ai ristoranti con la matriciana. E, insomma, l'elemento c'era, e non c'è da dire. Non è detto sia sbagliato altro, ma... affondano su cose che noi in quel periodo erano il nostro pane quotidiano. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, senta, io telefonavo per così perché mi sono sentito un po'... Cioè, loro è giusto che facciano questa satira, è giusto che facciano tutto. Per me va benissimo tutto, però se poi e qualcuna delle reazioni sbagliate come quegli terroristi che hanno fatto, e con la gente che gira per il mondo ora, con la gente che si cammina per le strade, passa quello e ti dà un cazzotto in faccia, con la gente che io vado a giro in pineta qui mi vengo aggredito perché soltanto che c'ho una catena al collo, e ti devi assumere anche d'altra parte se trovi uno che ti girano e va bene, sicché loro l'hanno denunciati, meno male. Perché magari trovavi una testa calda che andavi nella redazione e facevano magari qualcos'altro. E li ammazzava anche per la matriciana. Ma sono punti di vista, sai, somiglia un po' tanto al discorso che si sta facendo in questi giorni, l'episodio orribile che c'è stato in Calabria della ragazza stuprata. Alla fine la Vox Populi se l'è andata a cercare. Ecco, non è che uno se la va a cercare. Fa un mestiere in questo momento che sa che ha i suoi rischi. Sanno perfettamente quali sono i rischi. Cinzia Leone. Sanno perfettamente quali sono i rischi, hanno deciso di non autocensurarsi, perché la verità, anche ricordo una sola cosa, che quella vignetta era apparsa in un'area di Charlie Hebdo del giornale, che era qualcosa come cestino della spazzatura, non mi ricordo il nome in francese, quindi che anche per loro era considerata una cosa estrema e quasi un deiecta, no? Per dirla alla latina. La verità è non era l'apertura, diciamo, del giornale. Non era la copertina, mentre per esempio sull'Islam è stata la copertina e questo ha generato. Ma insomma, il tema non è questo. Il tema, secondo me, è attenzione. Tutto questo dibattito sulla coda di paglia, ma la più grande coda di paglia è quella dell'autocensura. Cioè, non ci dimentichiamo questo fenomeno, che è un fenomeno che non colpisce solo la satira, ma colpisce i direttori dei musei che tolgono i quadri di Maometto, case editrici inglesi che tolgono Peppa Pig dei libri per bambini, insomma, per non offendere i musulmani. Stiamo attenti a questo, non può. I limiti della satira. Il nostro, certo punto, nascondere le statue nude nei musei per non esatto, offendere. Esatto, che l'abbiamo visto di recente. Cioè, noi voglio dire la Venere. Questo però è l'essere più realisti del re, lo sì, spirito un po' sacristanesco che fa sempre. Ma questo tutto è il vero rischio, però, che corriamo. Tutti, non solo quelli della satira o quelli di Amatrice. Il rischio corre tutta una società di fronte a culture altre. Tu dici una noi cosa giusta, sai perché di vietare Cinzia? Il burkini, scusate, sì, noi, sì. La Francia ha vietato il burkini, ma siamo pazzi. Infatti si è fatta ridere dietro. Ma è la stessa cosa che vietare la satira. Non comprate, parlate male, ribattete, fate questa trasmissione con noi, ma teniamo viva la possibilità di mettere granellini di sabbia nei meccanismi. Massimo, buongiorno. Massimo. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, io ho sentito tutto un attimino la discussione. Volevo far notare un paio di punti secondo me importanti. Charlie Hebdo è libero di fare quello che vuole, come è libero di farlo ognuno di noi se rimane nei limiti della decenza. E di decenza onestamente ne ho vista poca. La differenza tra un attentato per delle vignette su Maometto e una querela la trovo un segno di civiltà molto, molto, molto differente. Beh, vorrei vedere bene, non è che partono da Amatrice con i picconi. Questo è chiaro, ma questo nemmeno dirlo, è superfluo dirlo. Esiste un baratro tra chi fa l'attentato e fa la querela non è un gesto lecito la querela. Quella noi abbiamo detto all'inizio, è perfettamente lecito che loro querelino, nessuno mette in dubbio. Però noi ci facciamo una riflessione, perché se noi dobbiamo prendere una posizione, dobbiamo dire è giusto querelare, se è giusto querelare allora bisogna in qualche maniera con lo strumento a querela limitare l'espressione della satira, quando è una satira generalista in questo caso, non è che colpisce un individuo, una persona sprovveduta, se la prende con in generale la copertura italiana del terremoto e sul fatto che gli italiani nonostante avessero avuto tutti i segnali e tutti i fondi pubblici non hanno messo in sicurezza le case, questo è il senso, quindi o si indigna tutta l'Italia fa una class action nazionale dice, e se la prende con Charlie Hebdo, se no noi dobbiamo riflettere. Se noi un anno fa eravamo tutti d'accordo che qualunque cosa dicano questi lazzaroni possono dirlo, perché noi siamo talmente civili che ammettiamo che ci siano anche loro, o se no noi diciamo si parte dalla querela e cominciamo a porre dei limiti, porre dei cancelli, che secondo me però non è la strada giusta. Riccardo, buongiorno. Riccardo. Sì, tutto. Ah, sì, no, io volevo intervenire sul fatto che ritengo assolutamente legittima la satira, ritengo ridicolo, sì, per carità, è una facoltà che chiunque ha, quello di querelare se si sente offese, ma in modo particolare, così come io ho provato un'infinita soddisfazione quando hanno i musulmani hanno fatto le loro vignette sui musulmani e quelli si sono imbestialiti, fatti loro, così ritengo lecito che loro attacchino. Beh, anche perché aspetti, noi siamo estremamente... non può dire ritengo lecito che si ammazzi una persona per una vignetta, però, scusi. No, ritengo lecito che si incazzino, non che si ammazzino. Ah, che se ne figuriamoci, no. Ma certo, ma giustamente, è la reazione. Arrabbiarsi, ma chiaramente è assolutamente fuori dalla realtà. Come io ritengo lecito il cristiano che si arrabbia se vede il suo Dio sbeffeggiato, però il cristiano... il passo avanti, che si arrabbia, esprime la sua indignazione, poi magari dice una preghiera, dice per l'anima di quello che ha sbagliato, ma non è che pensa di agire in maniera diretta e violenta contro chi fa questa cosa. Questa è la differenza, ma questa l'abbiamo già detto, è superato, non ne parliamo più nemmeno. È sullo strumento della querela. Lei sa, la querela poi è uno strumento che sì, può lasciare il tempo che trova, però può essere uno spauracchio. Se io mi accanissi contro un disegnatore, lo querelassi ogni volta che lui fa qualcosa, alla fine lui dice il giornale non mi copre, io la querela non me la posso permettere, il rischio di dover pagare un risarcimento. Guarda che i risarcimenti per le querele passano secoli in Italia, figuriamoci quando ci sono di mezzo le rogatorie internazionali. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, io la seguo dai tempi del Golem, penso un po'. Allora, niente, volevo dire, per carità, rimanendo sempre fermi nell'idea che ognuno può fare quello che vuole, Charlie Hebdo ha fatto qualche vignetta sulla strage di Nizza? Ma penso sì. Cinzia Leone, tu sei documentata in questo? In questo momento mi trovo a sprovvisto. Hanno fatto di tutto su tutto. Il problema è che non è stata sollevata la stessa... Non è stata fatta una querela. Nessuno ha querelato e quindi hanno lasciato il tempo che trovavano. Grazie Cinzia Leone, grazie agli ascoltatori. A domani.